Ma mentre vedete noi attaccamo la destra! Le cazzo fanno, vanno prese le gambe nuove! Ma più sono delle noi uguali! Ma le donne, Stefano non mi ignota, stamattina alle 5 sono a guardare! I signori, perché noi non siamo dei calze ossa come voi? È vero, siete fatto segno per i campioni, basta! Respirate! Ma siamo affaticati dal Papa!